Pizza 24, i gialli della storia. Ho preso parte alle quattro giornate per andare appresso a mio padre. Ogni strada aveva la sua barricata, il suo gruppo combattente, i suoi cittadini che volevano difendere la strada, difendere le case, difendere le donne, difendere i propri uomini. E finalmente è venuto un momento e abbiamo reagito. Settembre 1943, in molte città italiane scoppiano delle rivolte contro il regime e contro gli ultimi brandelli di totalitarismo che in questa fase saranno particolarmente crudeli. Milano, Torino, Napoli combatteranno per la loro liberazione e i nemici saranno gli alleati di ieri, quei tedeschi che dopo l'armistizio riveleranno tutta la loro ferocia. Quella che racconteremo oggi a Mix 24 è la guerra di liberazione che si è combattuto contro i nazisti a Napoli, strada per strada, piazza per piazza, vicolo per vicolo. La nostra guerra, come la chiamano i napoletani. Quattro giornate di rivolta popolare arrivata dopo gli anni del fascismo e dell'occupazione tedesca. Anni terribili che hanno messo in ginocchio la popolazione e Napoli, proprio nelle quattro giornate, ha trovato la forza e il coraggio per reagire. Nella puntata di oggi racconteremo anche gli anni precedenti a quello straordinario momento e poi quello che è successo dopo l'arrivo degli alleati e la conseguente liberazione della città. Un racconto arricchito dalle testimonianze dei protagonisti che hanno vissuto in prima persona quegli avvenimenti. Nei primi mesi del 1940, Napoli è ancora al riparo dai disastri della guerra. Il primo settembre 1939, i nazisti hanno invaso la Polonia e hanno cominciato a bombardare Varsavia. Ma è un conflitto lontano. A Napoli per tutti è tempo di autarchia. Abbiamo un impero, ma le massaie tornano a casa con la borsa quasi sempre vuota. Le scarpe femminili hanno il tacco di sughero. Gli uomini usano i cappotti rivoltati e la qualità delle sigarette è sempre più scadente. Anche se i lampi di guerra sono ancora lontani, a Napoli si allestiscono i primi ricoveri pubblici, mentre i giornali annunciano con toni trionfalistici che presto l'Inghilterra sarà costretta alla resa. Le notizie dei bombardamenti su Londra si mischiano alla sirena dell'allarme che lacera per la prima volta l'aria. È il 2 giugno 1940. Si tratta, per fortuna, solo di una prova generale. Ma il 10 giugno 1940 l'Italia entra in guerra al fianco della Germania di Hitler contro Francia e Inghilterra. È un pomeriggio afoso e i napoletani convergono a Piazza Plebiscito, dove gli altoparlanti trasmettono in diretta il discorso di Mussolini. Decisioni irrevocabili. Vincere! E vinceremo! Non esisteva alcuna preoccupazione perché non eravamo colti e istruiti in maniera sufficiente a farci capire che cosa avrebbe portato un'operazione del genere. Primo novembre 1940. Cade la prima bomba su Napoli. È una bomba inglese. Gli aerei arrivano da Malta, si infilano tra Capri e la punta della Campanella e si presentano sulla città che è già buio. Nonostante il fuoco della contraerea che riempie il cielo di tracce luminose, gli inglesi colpiscono installazioni militari, industrie, raffinerie, distruggendo i moli e i bacini del porto. Quella è stata la prima volta che abbiamo capito che cos'era la guerra, anche se un po' da lontano, perché devo dire che gli inglesi non bombardavano il centro abitato, bombardavano solamente o il porto o la zona industriale. C'è stato Johnny il ferroviere, che era quell'aereo da ricognizione che veniva tutti i pomeriggi a fare le fotografie dei danni provocati nel bombardamento notturno o le fotografie con i nuovi, diciamo, obiettivi da colpire. Per i civili cominciano i drammatici risvegli al suono delle sirene nel cuore della notte. I ricoveri pubblici si affollano più di quanto è consentito dalle norme di sicurezza. La sistemazione è assolutamente precaria. Nonostante il prodigarsi degli uomini dell'Unione Nazionale Protezione Antiaerea, mancano le brande, le scorte dell'acqua, le latrine, le attrezzature mediche. La gente non andava più a letto col pigiama o con le si limitava tutto a più a togliersi le scarpe e forse sbottonarsi la cravatta e dormire, perché cercare di dormire, perché beh, pressoché inevitabile, prima o dopo, deve dall'orario. Insomma. Comunque, fino a tutto il 1942, soldati e civili cercano di esorcizzare le angosce crescenti del conflitto, anche se i giornali napoletani riportano le notizie di grandi vittorie degli eserciti dell'asse. I tedeschi sono di casa sulle rive del Golfo. Nell'ospedale Costanzo Ciano, a Bagnoli, vi è un reparto per i piloti e i soldati tedeschi feriti sul fronte africano. Un convalescenziario per i soldati e gli ufficiali dell'Africa Corps è alla Santarella, sulla collina del Vomero, nel punto più panoramico della città. Sul finire del 1942, i bombardamenti su Napoli aumentano di intensità. Gli Stati Uniti sono entrati in guerra a fianco di Francia e Inghilterra. Anche sul cielo di Napoli fanno il loro debutto le fortezze volanti americane con il loro impressionante carico di bombe. Che cosa è successo? Che i bombardamenti sono caduto due bombe nel palazzo prima di noi. Prima di noi. E questo, lo scoppio delle bombe ha fatto sì che ha fatto sollecitare le mura, il palazzo. E poi si è spenta la luce, la gente che gridava, appaurata, e scappava. Però non sapeva neanche dove scappare, perché era di notte e si erano spente tutte le luci. Le ferite inferte a Napoli sono subito evidenti, i bombardamenti sono terribili e senza tregua, e non ci sono più solo obiettivi militari, ma anche case abitate da civili sia in periferia che nel centro storico. Si aprono voragini nelle strade principali, neanche gli edifici religiosi e gli ospedali vengono risparmiati, il numero delle vittime è enorme. In più gli aerei americani arrivano il più delle volte in pieno giorno, quando la gente è al lavoro. Le strade affollate e i bambini a scuola rendono la situazione ancora più critica. Il 4 dicembre incomincia la fase terroristica da parte dei bombardieri americani. Si presentano sulla città e scaricano il loro carico micidiale di bombe. Ed ecco l'attacco improvviso sulla città di Napoli, che colpì l'incrociatore a Tendolo in Monte Cuccoli e il Duca degli Abruzzi, che erano attraccati alla porta di Massa lì. Sull'incrociatore a Tendolo lavoravano più di 100 operai della Bacini e Scali per delle riparazioni e furono massacrati tutti. Fino a pochi anni fa lo scafo dell'Attendolo è stato lì affondato e quando è stato portato a galla sono venuti fuori gli scheletri di questi operai morti il 4 dicembre del 1942 sotto il bombardamento. Quel giorno Napoli è investita dall'onda d'urto delle bombe dirompenti e le vittime sono centinaia. Gli ospedali si riempiono di feriti. L'incursione diurna provoca una strage in prossimità delle poste centrali. C'è stato un massacro, una cosa tremenda. Quello che ricordo proprio in una maniera tremenda, una carrozzella in piazza Garibaldi, presa forse in pieno, non era una bomba nemmeno, ma qualche scheggia, qualche cosa, saltata in aria, il cavallo a terra, morto, o vetturino, non si sapeva più niente. Braccia morti, feriti, insomma. L'orrore dei bombardamenti raggiunge persino alcune famiglie accalcate in un ricovero. una notte è caduta una bomba su questa strada, ha sfondato la fogna senza esplodere e poi è esplosa nel ricovero. Quindi questa povera gente schiacciata vicino al muro, completamente schiacciata, e il ricovero invaso poi dalle acque luride di provenienza della fogna. La prima conseguenza dell'inasprimento del conflitto è la fame. Ci si arrangia con quel poco che si trova facendo il giro affannoso dei mercati. Non si mangiava quasi niente, se non carrube, un po' di frutta, bucce di cavoli, sangue fritto. Questo era quello che riuscivamo a tirar fuori. Sono le 17.30 del 28 marzo 1943. La nave Caterina Costa, una Santa Barbara galleggiante con materiale bellico, esplosivi e più di 1.000 tonnellate di benzina nelle stive, salta in aria nonostante il prodigarsi fin dalle prime ore del mattino di pompieri, portuali e soldati. Ma quello che abbiamo visto lì, e sui quartieri, e al Bomero, e al Corso, arrivavano pezzi di tutte le specie, feriti ce ne sono stati, perché venivano... La gente veniva ferita da pezzi di cannone, da schegge, dal porto. L'onda d'urto investe Napoli. Sul ponte vi sono anche cannoni e cingolati. La torretta di un carro armato va ad incastrarsi nel tetto del Teatro San Carlo dopo un volo di 500 metri. Il numero delle vittime è enorme, forse 3.000. Molti sono donne e bambini che assistevano ignari del pericolo alle operazioni di spegnimento. Con la primavera del 1943, mentre in Russia l'esercito italiano in disfatta è in piena ritirata, a Napoli inizia lo sfollamento. I bombardamenti giorno e notte non danno requie ai napoletani. La contraerea è incapace di contrastare la penetrazione degli aerei nemici sul cielo di Napoli. Per fuggire sono presi d'assalto treni e corriere. 10 luglio 1943. Gli anglo-americani sbarcano in Sicilia. È il preludio della sconfitta italiana e della caduta del fascismo che avviene il 25 luglio con la deposizione di Mussolini dopo una storica seduta del Gran Consiglio. Napoli è in fermento e nei giorni successivi si registrano le prime manifestazioni di insofferenza verso i pezzi grossi del regime. Intanto i bombardamenti americani continuano sempre più violenti e frequenti. Il 4 agosto 1943 i napoletani subiscono l'attacco più violento di tutta la guerra. I quartieri del centro storico, con il porto e la zona industriale di San Giovanni a Teduccio, sono investiti dalle bombe. Gli aerei, più di 300, arrivano ad ondate e la sirena risuona per tutta la giornata. Il primo allarme è alle 13.25, l'ultimo alle 21.30. Il cessato allarme è all'una di notte del 5 agosto. È il 96esimo bombardamento dall'inizio della guerra. L'8 settembre del 1943 l'Italia firma l'armistizio con gli americani. I nemici adesso, anche se Badoglio non lo dice subito chiaramente, sono diventati i tedeschi, gli alleati di un tempo. Il caos è indescrivibile. A Napoli, come in tutta Italia, i soldati privi di ordini abbandonano le caserme. La città diventa ostaggio dei soldati del generale Kesselring, che risponde direttamente al Führer delle operazioni sul fronte meridionale. Napoli ha una straordinaria importanza strategica e non può essere abbandonata agli alleati che il 9 settembre sono sbarcati nel Golfo di Salerno. Venuta meno ogni parvenza di autorità civile e militare e discioltosi il Partito Nazionale Fascista, il colonnello Walter Scholl, su disposizione dello stesso Kesselring, diventa il padrone della città. L'ordine di Berlino è di ridurre Napoli a terra bruciata. Sono quei 20 giorni lì che hanno rivelato la faccia feroce, diciamo, dei tedeschi. Cominciato con le distruzioni negli stabilimenti, nelle industrie. I tedeschi cominciano la distruzione sistematica delle fabbriche e delle strutture portuali. Bruciano gli stabilimenti dell'Ilva a Bagnoli, usciti praticamente indenni dai bombardamenti americani. Viene incendiata anche l'Università Federico II. È a questo punto che cominciano i primi scontri tra napoletani ed esercito tedesco. 12 settembre 1943. Il colonnello Scholl, rabbioso per la resistenza opposta ai suoi uomini, ordina lo stato d'assedio e minaccia. Ogni soldato germanico ferito o trucidato verrà rivendicato 100 volte. Il 20 settembre, inglesi e americani si sono ricongiunti e marciano verso Napoli. Due giorni dopo, Scholl fa diffondere un altro bando, quello del servizio obbligatorio. Tutti gli uomini dai 18 ai 33 anni devono mettersi a disposizione delle autorità tedesche per essere avviati al lavoro coatto in Germania. Su 30.000 napoletani attesi si presentano solo in 150. Per il colonnello Scholl è un vero e proprio atto di sabotaggio. La risposta tedesca sono i rastrellamenti. Casa per casa, i soldati fermano migliaia di uomini e ragazzi. 27 settembre. Il colonnello Scholl ordina una grande retata. Più di 8.000 napoletani vengono rastrellati per essere deportati in Germania. È il preludio della rivolta, che fa il suo debutto all'alba del 28 settembre 1943. Da quel momento, 4 giorni di guerriglia che coinvolgerà l'intera città e ogni quartiere con decine di atti di vero eroismo. Battaglie in ogni quartiere e in tutte le strade, che costringeranno i tedeschi, pressati anche dal fatto che gli americani sono alle porte di Napoli, a lasciare progressivamente la città. Un gruppo di napoletani assalta un autocarro e uccide un soldato tedesco. La reazione è immediata. Vengono fucilati 6 napoletani, tra cui una ragazzina di 15 anni. A piazza Vanvitelli e nelle strade centrali del Vomero, i conflitti a fuoco si succedono. Numerosi mezzi della Wehrmacht sono attaccati con le armi rubate agli arsenali militari, tra cui il forte di Sant'Elmo. Allora ci incamminammo, siamo andati là sopra e nello spazio di 2-3 ore abbiamo portato via 25 fucili, un fucile mitragliatore, una ventina di pistole. La reazione tedesca però non si fa attendere. 47 ostaggi vengono rinchiusi nel campo sportivo Littorio, al Vomero. La rivolta si estende rapidamente a molte altre zone di Napoli. La Sanità, il Vasto, Salvator Rosa, Capodimonte, Monte Calvario, Ponticelli, Poggio Reale. Gruppi di giovani cominciano a girare armati per i loro quartieri. Si appostano sui terrazzi e cominciano a sparare. Armati dalla locale caserma dei carabinieri, molti napoletani costringono gli uomini di Scholl ad abbandonare una fabbrica di scarpe militari. In quell'occasione si distingue per coraggio la giovane Maddalena Cerasuolo. Io non avevo un'arma. Cioè, dico, come faccio? Aveva una rivoltella quella là che si mette nei proiettili, come si chiama? Dentro quella rotella. Allora un ragazzo dice, la vuoi l'arma? Mi ha detto, ti dammela. Al Vomero si spara tra via Scarlatti, via Luca Giordano e via Cimarosa e si costituisce un fronte rivoluzionario comandato dal professor Antonino Tarsia in Curia. Il quartier generale è al liceo San Nazzaro. Il 29 settembre, dopo una lunga notte di pioggia, l'alba vede gli insorti impegnati nel contrastare i tentativi tedeschi di minare gli edifici pubblici, i monumenti e le sedi dei servizi assistenziali. Gli scontri non risparmiano nemmeno gli scugnizzi. Gennaro Capuozzo, di 12 anni, muore affrontando a viso aperto un Panzer lungo via Toledo. Sarà una delle medaglie d'oro alla memoria. Il prezzo pagato dai napoletani è molto alto. I corpi dei caduti, tra le fila dei combattenti del Vomero, vengono trasportati al liceo San Nazzaro, dove è allestita una camera ardente. 30 settembre. È il giorno della resa dei conti. I tedeschi sono ormai in ritirata, ma non per questo meno determinati. Per tutto il giorno, alla masseria Pezzalonga, nella zona della Pigna, un gruppo di patrioti resiste eroicamente ad un accerchiamento nemico. Muore, tra gli altri, lo studente 18enne Adolfo Pansini, che faceva la spola tra il luogo degli scontri e il quartier generale del liceo. Ma questa volta gli alleati sono davvero alle porte di Napoli. Al tramonto, il colonnello Scholl lascia la città in auto preceduto da due mezzi pesanti. Napoli può contare i suoi morti. Dalle prime schermaglie dell'11 settembre sono 646 i caduti sotto i colpi dei soldati tedeschi e dei cecchini fascisti. Agli scontri delle quattro giornate hanno partecipato attivamente più di 2000 insorti, civili per la maggior parte, costretti ad una guerra combattuta tra le mura di casa. L'arrivo degli alleati a Napoli provoca gioia, serenità, nuovi entusiasmi. Sembra che tutto possa essere dimenticato in fretta. Ma anche da questi nuovi ospiti arriveranno alcune difficoltà. Ma saranno problemi completamente diversi da quello con cui i napoletani si erano abituati a convivere. I liberatori apriranno le porte a un nuovo concetto di libertà con cui bisognerà imparare a convivere. Il 1 ottobre, alle 9 del mattino, dopo molte esitazioni, le truppe alleate entrano in città. La gente esce dalle case e le accoglie tra gli applausi. Gli alleati impongono nuovamente l'oscuramento e il coprifuoco. Per entrare o uscire dalla città occorrono i lasciapassare. L'8 ottobre 1943 sbarca la prima nave carica di farina. Dopo anni di restrizioni e di cibo di qualità scadente, nasce il mito del pane bianco. Nonostante il governo alleato tenti di stroncarlo sul nascere, trionfa il fenomeno del mercato nero. E ciò che manca nei negozi riappare puntualmente nei vicoli di Forcella o della Sanità a prezzi più che decuplicati. Un chilo di pane costa 3,50 lire al mercato legale, 130 lire al mercato nero. La pasta 5 lire al chilo al mercato legale, 190 al mercato nero, un aumento del 4000%. Ardua è anche la battaglia contro le malattie veneree. Le donne che si prostituiscono sono tantissime, si dice 40.000, un numero abnorme se confrontato a quello degli abitanti, meno di 1 milione. I soldati alleati in libera uscita sono quasi sempre ubriachi. E così le violenze sono all'ordine del giorno, con gli alleati nel ruolo di predatori, oltre che di liberatori. Intanto i napoletani, per il quarto anno consecutivo, devono fare i conti con i bombardamenti. Nella notte tra il 14 e il 15 marzo 1944, Napoli subisce la più grave delle incursioni tedesche e le bombe lanciate dagli Junkers 88 fanno 300 vittime in città. 4 giugno 1944. Roma viene liberata. Per i napoletani è la fine di un incubo. La guerra mi ha tolto... La cosa più bella che possa avere un giovane è quella di essere un ragazzo. La sua vita si svolge con la nascita, poi i ragazzi. Non sono stato un ragazzo. Ho perduto la casa dell'infanzia, tutti gli oggetti dell'infanzia, e con quella è finita l'infanzia. Mi ha messo davanti alla realtà delle cose e assumere delle decisioni o delle responsabilità. Quando gli americani lasceranno Napoli, i cittadini partenopei si troveranno a convivere con una città distrutta, senza punti di riferimento che bisognerà reinventare. Poi il ritorno dei reduci dai campi di prigionia che aprirà nuove frontiere, nuove problematiche. E poi bisognerà affrontare la ricostruzione e tutti i disagi del dopoguerra. Ma questo è un altro capitolo.